Lunedì 8 marzo, giornata internazionale della donna, che da qualche anno, per non una di meno, è giornata di sciopero femminista e transfemminista. Uno sciopero che si ripresenta anche quest'anno, con qualche complicazione ovviamente dettata dalla pandemia, ma per parlarne siamo in collegamento con Alina e Laura di non una di meno Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto grazie per questo spazio. Uno sciopero che si tiene anche nella giornata di oggi, e nel comunicato stampa di venerdì scorso avete sottolineato: noi non rinunciamo. Sì, diciamo che anche quest'anno ci ritroviamo in zona rossa. L'anno scorso abbiamo fatto altre scelte anche perché eravamo tutto impreparate allo scoppio della pandemia e abbiamo messo la cura e l'autotutela collettiva davanti. Anche quest'anno questa è un punto che ci guida, però se l'anno scorso proprio la copertura dello sciopero era stata vietata dalla commissione di garanzia, già i primi effetti della pandemia mostravano le difficoltà proprio di poter scioperare, soprattutto riguardo a quei lavori di riproduzione, soprattutto lavori di cura. Quest'anno abbiamo visto come l'acuirsi delle conseguenze della pandemia sono ricadute, come già avevamo detto, sulle donne, le persone LGBTQ e sulle persone migranti. Infatti abbiamo definito lo sciopero essenziale perché riteniamo che di fronte proprio alla centralità della riproduzione messa in luce dalla pandemia rispetto ai cosiddetti lavori essenziali, che però hanno significato un'intensificazione dei turni ma anche delle condizioni di un peggioramento delle condizioni di lavoro, la nostra lotta è essenziale. Già i dati Istat relativi al 2020 hanno mostrato come il 70% delle donne hanno perso il lavoro nonostante il blocco dei contratti, che tra l'altro scaderà a breve, perché sono le donne che hanno contratti precari, hanno un reddito più sacrificabile, ma questa perdita, diciamo, di reddito non ha significato un arresto rispetto al lavoro. Infatti le donne hanno continuato a lavorare, soprattutto nella sfera della cura, e le cose si mettono peggio quando appunto dal tuo lavoro dipende il tuo permesso di soggiorno, nel caso appunto delle persone migranti. E abbiamo visto come la pandemia ha mostrato ancora di più, diciamo, quali sono le condizioni di lavoro, come si manifesta la violenza strutturale maschile e di genere. In particolare voi sottolineate proprio come anche all'interno delle diverse restrizioni che il nostro paese ha vissuto in quest'anno, anche la questione della zona rossa o arancione ha un forte impatto proprio sulla vita delle donne e anche la loro organizzazione. Potete farci qualche esempio? Nella zona rossa abbiamo sentito le parole del sindaco Merola, che dice: si può uscire solo per andare a lavorare, quindi la disponibilità a farsi sfruttare. Sappiamo che però la casa non è proprio un luogo sicuro per le donne e le persone LGBTQ, e anzi anche non solo un luogo di violenza ma anche un luogo di lavoro. Ad esempio la scorsa settimana sono state multate delle lavoratrici domestiche migranti mentre si prendevano una pausa dal lavoro in un luogo aperto, quindi dove, diciamo, il rischio contagio diminuisce rispetto ai luoghi chiusi, ma soprattutto perché la casa per loro rappresentava un luogo di lavoro. In particolare anche nel lavoro di cura, nella gestione ad esempio dei figli, si è parlato dei congedi parentali per permettere alle persone appunto di restare a casa magari mentre il figlio è in didattica a distanza, però anche queste forme, diciamo, di permessi sono problematiche. Sì, assolutamente, perché sappiamo bene su chi ricade il lavoro di cura, anche nel caso in cui ci siano dei congedi parentali comunque pagati al 50%. Per cui per noi le risposte che sono state date in quest'anno, che ancora viene definito emergenza quando ormai non può essere più definito tale, siano carenti e non rispondano assolutamente alle nostre richieste ma anche alla nostra visione. Per cui, tra l'altro, in questo momento ci troviamo alle porte della scadenza del piano antiviolenza, e a cui appunto viene data risposta attraverso il recovery plan o anche il Family Act. Queste sono tutte forme di risposte istituzionali che però vanno a riprodurre tutte quelle forme anche di violenza domestica che avvengono nella famiglia, contro cui noi lottiamo ormai da diversi anni, Per cui questo tipo di risposte non, per noi non sono sufficienti, anzi vanno assolutamente contro quello che noi proviamo a ripetere attraverso anche la processualità dello sciopero. Tutti i dati e anche quelli che sono usciti la settimana scorsa sugli effetti della pandemia, in particolare sull'aumento della povertà, confermano che le categorie maggiormente colpite sono le donne e i giovani. E se sei giovane donna, ovviamente ti colpisce in modo doppio. Ve l'aspettavate? Sì, nel senso il discorso che facciamo appunto parla di violenza strutturale, quindi significa che è vero che appunto in quest'anno così complesso alcuni dati sono aumentati o si sono diversificati, ma di fatto è il riflesso di appunto sistemi radicati nella nostra società e che semplicemente si sono appunto amplificati. Per cui anche i dati purtroppo rispetto ai femminicidi che continuano ad avvenire in maniera sempre più ricorrente purtroppo dimostra il fatto che questo non succede solo a causa del periodo difficile che stiamo attraversando, ma perché c'è tutto un sistema strutturale di violenza che continua a riprodursi e ad intensificarsi. Rispetto a questo vorremmo dire che appunto i centri antiviolenza hanno continuato il loro lavoro enorme anche nel periodo del lockdown, in cui era ancora più difficile recarsi appunto presso i centri. Anche per questo ci uniamo alla richiesta proprio dei CAV di ottenere dei finanziamenti più strutturati, diciamo, e anche più consolidati, diciamo, proprio perché le risposte emergenziali per noi non vanno assolutamente bene. Resto ancora sul tema dei femminicidi, perché sempre parlando di dati fa impressione vedere come, diciamo, gli omicidi in generale sono diminuiti durante la pandemia, ma non i femminicidi, che invece delle due sembrano aumentare. Non una di meno, già l'anno successivo della sua nascita ha presentato un piano contro la violenza di genere. Potete parlarcene un po'? Sì, il piano è nato grazie al lavoro collettivo svolto per un intero anno e ha toccato moltissimi aspetti della nostra vita, partendo ad esempio dall'educazione fino alla salute intesa come appunto benessere e quindi anche quello che riguarda la salute riproduttiva, ma non solo. Il piano per noi rimane ancora attuale, anche se ovviamente è un lavoro che continuiamo a fare costantemente, proprio perché comunque le cose cambiano e quindi anche noi continuiamo ad aggiornarci in questo senso. Anche perché già nel piano emergeva questa visione strutturale, tanto che appunto, come diceva Laura prima, erano diversi piani che si andava a toccare. Vediamo ancora oggi come la narrazione dei femminicidi da parte dei media sia problematica e anzi riproduca una violenza secondaria, e infatti per esempio nel piano richiedevamo con forza proprio una formazione in materia di violenza di genere e violenza maschile, tra le varie richieste, per esempio anche il diritto a una giustizia riproduttiva. Vediamo come in Italia ci sia ancora un alto tasso di obiettori, nonostante durante la pandemia, sempre in maniera emergenziale, sia stata applicata la possibilità di effettuare l'aborto farmacologico. Però rispetto a delle misure che poi vengono applicate non segue una fattibilità proprio di queste misure, tant'è che in alcune regioni non vengono praticate, non so come dire, quindi di fronte magari alla possibilità di accedere alla RU, dall'altra non ci sono proprio le condizioni per poterlo fare. Rimango ancora un attimo sul piano, perché c'è una delle richieste di Non Una Di Meno, mette insieme il contrasto alla violenza di genere e il lavoro, e che è il reddito di autodeterminazione. Certo, il reddito di autodeterminazione è una delle rivendicazioni di Non Una Di Meno, assieme al permesso di soggiorno europeo svincolato da famiglia e lavoro, così come il reddito di autodeterminazione è svincolato dal lavoro, dalla famiglia, perché di fronte a un cambiamento di quello che è il lavoro, siamo sempre più precarie, la difficoltà d'accesso al lavoro, che comunque significa sottostare ed essere disponibili a certe condizioni. Soprattutto, diciamo, nella pandemia abbiamo visto come quella che viene definita la femminilizzazione del lavoro, cioè dei tratti caratteristici del cosiddetto lavoro femminile, o meglio, attribuito al lavoro delle donne, e quindi il lavoro di cura e il lavoro di riproduzione, la cui costruzione sociale decide che dobbiamo essere continuamente disponibili, non c'è più differenza tra tempi di vita e tempi di lavoro, questa caratterizzazione del lavoro si è estesa, soprattutto lo vediamo nella forma dello smart working, anche al lavoro produttivo. Pensiamo a tutte le persone che hanno perso in questo momento il lavoro, che non hanno proprio una possibilità di sopravvivere, e diciamo i sostegni, le misure abbastanza irrisorie che sono state fornite sempre nella situazione emergenziale, non solo non garantiscono una continuità, ma creano ulteriore precarietà, perché proprio diciamo le trasformazioni del lavoro sono strutturali, sono neoliberali. Inoltre è fondamentale, soprattutto in situazioni di violenza, è difficile intraprendere percorsi di fuoriuscita, perché spesso, proprio per l'impostazione familistica, succede che c'è una dipendenza dal salario del magari del proprio compagno, perché conosciamo la situazione del gender pay gap, e quindi la mancanza di autonomia economica rende più difficile anche la fuoriuscita da percorsi di violenza. Quindi il reddito di autodeterminazione è qualcosa di complesso che va a rispondere proprio in maniera strutturale alle diverse condizioni che si danno, così come richiediamo anche l'aumento del salario minimo e, come dicevo prima, un permesso di soggiorno europeo che però sia svincolato dal lavoro, che in questa situazione emerge ancora più chiaramente la sua necessità. Fino a qui abbiamo parlato delle ragioni dello sciopero, parliamo dello sciopero in sé, perché ogni anno una di meno, come dire, fa fatica o trova ostacoli nella copertura sindacale, diciamo c'è, ma spesso solo con i sindacati di base, o addirittura c'è la commissione di garanzia che pone degli ostacoli. Sì, esatto, quest'anno lo sciopero c'è, per fortuna, quindi c'è la copertura sindacale per poter scioperare, anche se, come dicevi anche tu, in alcuni settori purtroppo è stato impedito, tra l'altro per delle regole varate di recente, proprio in contrasto, diciamo, alla pandemia. Però sì, lo sciopero c'è. Nonostante questo, ovviamente noi ci interroghiamo su quanto poi lo sciopero sia praticabile, no? Da tutte e tutti, e anche per questo, nonostante, perché appunto anche a Bologna ci troviamo di nuovo in zona rossa, abbiamo pensato a varie forme di sciopero e soprattutto come riuscire a visibilizzare appunto la giornata dell'8 e dello sciopero. Per cui abbiamo scritto, diciamo, un breve vademecum che trovate sulla nostra pagina Facebook e all'interno dell'evento, e in cui diamo degli spunti, perché poi chiaramente ognuna può decidere di visibilizzarlo in modo diverso, però ad esempio è possibile esporre sia dentro casa ma anche fuori casa un simbolo. Per noi ad esempio il pannuello fucsia è uno di questi simboli che è abbastanza visibile, e quindi è possibile, diciamo, indossarlo e portarlo in giro, perché comunque quest'anno, tra l'altro, ci troviamo di fronte a una frammentazione del lavoro e ad una sua trasformazione, per cui ad esempio per chi lavora in smart working è ancora più difficile mostrare che si sta facendo sciopero, no? Però ad esempio invitiamo anche chi non può sottrarsi appunto al lavoro stesso a indossare qualcosa, e magari, visto che adesso siamo tutte impegnate in call a ripetizione, è possibile appunto visibilizzarlo anche tramite questi piccoli gesti. Tra l'altro, forse mi sono dimenticata di dire che appunto la scuola purtroppo è stata completamente esclusa dallo sciopero, e questo è una notizia che ci ha abbastanza messo in difficoltà, diciamo, perché la scuola invece è sempre stato uno di quei settori che ha partecipato in gran numero allo sciopero, e sia dalla parte degli studenti, delle studentesse, ma soprattutto anche di chi lavora, no, nella scuola. E nonostante questo, anche rispetto appunto a questo, stiamo invitando comunque le insegnanti, gli insegnanti a, non so, magari dedicare uno spazio all'8 marzo, alla lotta femminista. Tra l'altro questo divieto è dovuto appunto, come diceva, accennava Laura prima, a ulteriori limitazioni al diritto di scioperare a causa di un protocollo d'intesa firmato da CISL, UIL, CGL, tra le altre, che non permette di scioperare, di fare più scioperi nella stessa settimana, e infatti il comparto scuola è stato escluso proprio perché nella scorsa settimana sono stati indetti altri scioperi. Ma ci teniamo a sottolineare che, per esempio, educatrici, educatori afferenti a cooperative, così come le lavoratrici delle scuole dell'infanzia e degli asili nido, hanno ancora la copertura apertura e possono scioperare. Noi siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, un'ultima battuta, perché non una di meno, si è sempre posta come movimento intersezionale e anche internazionale, e nel mondo ci sono stati diversi scenari di lotta delle donne, alcuni che hanno portato anche a delle vittorie come in Argentina, ma anche nell'est europeo ci sono state diverse mobilitazioni, quindi è un percorso che va avanti. Sì, assolutamente, infatti siamo assolutamente felici che il processo dello sciopero stia continuando nonostante le difficoltà, anche su un livello e un piano transnazionale che è difficile portare avanti, anche perché ovviamente ogni movimento poi parte, no, dalla propria situazione specifica, però pensiamo sia importantissimo provare a tenere insieme questi piani, provare a unire le tre lotte, e anche per questo l'8 marzo e lo sciopero si articola poi in moltissimi paesi. È stato scritto anche un manifesto rispetto a questo, che anche noi come Non Una di Meno abbiamo firmato e costruito ovviamente. Questo ovviamente ritorna al fatto, no, che la violenza è strutturale, per cui non è un fenomeno che si riproduce solo in uno specifico contesto, solo in una specifica struttura, diciamo, della nostra società, ma attraversa, in modo anche, come dicevi tu, intersezionale, moltissimi piani. Rispetto a questo siamo anche contente di poter dire che appunto in molti paesi lo sciopero sarà anche visibile con i corpi, per cui sono stati anche chiamati dei presidi statici o meno statici in base anche alle situazioni, diciamo, ai contesti presenti, e questo si riallaccia un po' anche a tutta la lotta, no, in atto anche in Polonia, ad esempio, tu citavi l'Est Europa, quindi dal 2016 diciamo questo processo non si ferma, anzi si continua a potenziare e continua a darci anche la forza di portare avanti questa lotta. Io vi ringrazio e vi auguro buono sciopero. Grazie. Grazie.